Sto vivendo un dramma di psicosomatica, psicosomatica, brucia la svastica, psicosomatica, superuomo del nuovo millennio, superuomo del nuovo millennio. Sto vivendo un dramma di psicosomatica, psicosomatica, brucio la svastica, psicosomatica, superuomo del nuovo millennio, superuomo del nuovo millennio. Del nuovo millennio. Ebro e libero dal nulla, ritorno alla luce di ogni mio scorrere limpido. Crisi ontologica della mia vita medianica, medianica, medianica. Rinascita cristica. Resurrezione, resurrezione. Lascia il tuo corpo e mente e anima fluire libero, libera, ebro e libero e libera, dal nulla ritorno alla luce, crisi ontologica della mia vita medianica, medianica, medianica. Questa è pillola mistica, miracolo di ogni radice, ritorno alla logica, dopo ogni emotiva variazione dislessica. Cura la distorsione dell'io, lasciati scorrere libera, lasciati scorrere libera. Swing, swing, swing. Libera, libera la mente, libera dalla sostanza del corpo, ritrovando la tua anima sognante. Libera, libera la mente, libera, liberati dalla sostanza del corpo. Ritrovando la tua anima sognante, libera, libera la mente, libera. Ricordi invadenti come bisturi nella mia sfera cognitiva olistica, olistica, olistica. Ricordi invadenti come bisturi nella mia sfera olistica, olistica, olistica. Libera la mente, libera la mente, liberati dalla sostanza del corpo, ritrovando la tua anima sognante, ritrovando la tua anima sognante.